Italia in controluce. In studio Daniele Biacchessi ed oggi è il 19 di febbraio. Già 3 anni fa Italia in controluce intercettò per prima il fenomeno politico che nasceva intorno alla figura di Beppe Grillo. Questa puntata l'abbiamo chiamata Nel cuore del grillismo. Ciò che Grillo chiama comunità è un magma che si è organizzato in modo lento e che oggi rappresenta la vera novità del sistema politico italiano. Lo ricordo dai primi agorà anti-berlusconiani alle proteste antisistema, sparse lungo le strade e le piazze delle grandi città, dalle incursioni di Beppe Grillo nei CDA di Telecom e delle banche al moltiplicarsi dei cosiddetti meetup, una comunità di discussione, di azione politica in rete, alla nascita e al consolidamento del Movimento 5 Stelle, fino ai successi prima in Piemonte, poi in Sicilia, poi a Parma e molte aree del paese. Era il settembre del 2010, 3 anni fa, mancavano pochi giorni allo storico raduno di Cesena e Cristina Carpinelli intervistava Beppe Grillo sul suo movimento. Questo è l'inizio di qualcosa che è iniziato 4-5 anni fa con la rete, col blog, e grazie a questa straordinaria tecnologia si è formato un movimento a cui ho dato una spinta con la mia faccia e il mio nome, ma è un movimento che è stato creato sulle idee. Quando io faccio delle interviste mi trovo in difficoltà perché voi giornalisti siete dentro uno stagno di cui e non riuscite a uscirne neanche col linguaggio. Parlate di percentuali, di nomi, di persone che io ormai non tratto più. Io, questo movimento non è né di destra né di sinistra, di centrodestra, centrosinistra, che sono cose senza senso. Questo movimento è sopra, è avanti. Però è un movimento che si dovrà orientare durante il voto, diciamo. Ecco, di nuovo, orientare, che cosa vuol dire? Quello che voglio dire è, quando parlavo di orientarsi, è che comunque nella scelta quotidiana, no, del proprio vivere uno si orienta, cioè fa già politica scegliendo di comprare un prodotto rispetto a un altro, di guardare il suo blog rispetto a un altro. In quel senso poi... Ma noi abbiamo un programma, c'è il programma sull'energia, che è una forma culturale diversa, e poi abbiamo una cosa di cui io vado orgoglioso, se mi permette, che ci distingue da un partito. Quando ci chiamano partito lo fanno perché, o quando ci dicono che togliamo voti lo fanno per darci un alibi alla loro inefficienza, alla loro ignoranza politica, perché la cosa che ci distingue è che noi non gestiamo e non usiamo soldi pubblici, abbiamo separato la politica dai soldi. Noi abbiamo dimostrato che abbiamo preso nell'indifferenza totale senza usare una lira di soldi pubblici. Noi abbiamo detto basta. L'unica alternativa che c'è è non farlo conoscere questo movimento, oppure farci conoscere in un modo distorto. Sbagliato. Cioè dire Grillo scende in politica, eccolo lì Grillo che fonda un partito. Io ci tengo a dire una cosa. Noi abbiamo queste due cose, ci diversificano da qualsiasi partito politico. Non c'è un leader, che ognuno vale uno, si decide sulle liste civiche da fare. Qual è quel partito politico che lascia libere le liste civiche? Questo è un movimento che si costruisce dal basso. Le liste, si valuterà il programma, perché il programma l'abbiamo fatto insieme a tante persone, specialisti anche mondiali dell'economia e dell'energia, ma può essere rettificato, compensato, cambiato. Questo era Beppe Grillo al microfono di Cristina Carpinelli 3 anni fa, quando Italia in controluce iniziava, diciamo, a capire, a captare il fenomeno, questo fenomeno del 5 Stelle. Che cosa ne pensate? 349-238-6666. Guido da Bergamo dice che fare critiche è molto più facile che governare, se però non sei un buon diplomatico rischi solo la fine di Savonarola, dice Guido da Bergamo. Allora voi cosa ne pensate del Movimento 5 Stelle, di questo fenomeno politico che sta crescendo di giorno in giorno e sta crescendo proprio a pochissime ore dalle elezioni forse più complicate della tale più complicate della storia politica italiana. Piero Ricca, giornalista del Fatto Quotidiano, lo ha intervistato la nostra Maria Luisa Pezzali e ci racconta le origini e le trasformazioni di questo movimento. Il movimento, come tutti ormai sanno, nasce dal blog di Grillo organizzato dall'agenzia di Gianroberto Casaleggio. Questo ha creato una comunicazione indipendente dai grandi media, dai giornali e dalle TV, che puntava su alcuni punti di riferimento fondamentali, una critica radicale al sistema dei media. Quindi non deve stupire questa diffidenza, per esempio, verso i talk show o verso le interviste o verso i giornali. Poi c'era un'esigenza molto radicale di trasparenza della politica, della gestione della cosa pubblica, sui soldi, sui privilegi, sugli incarichi, sui conflitti di interessi. C'era una fortissima sensibilità ambientalista, quindi di ecologia. E poi c'era questa componente che io ho registrato attraversando l'Italia. Secondo me Grillo ha assecondato una richiesta che c'era, ma che i partiti non assecondavano più, di partecipazione dei cittadini. C'è chi dice che all'inizio ci fosse più anti-berlusconismo, poi più anti-politica tout court. Concordi? No. Anticasta è un conto, antipartitica è un conto, antipolitica è un altro, nel senso che questo movimento può piacere o non piacere, però esprime l'esigenza e la volontà di un nuovo modo di fare politica, quindi definirlo antipolitica secondo me è sbagliato, come non è corretto definirlo un movimento anche a livello iniziale di anti-berlusconiani, no, assolutamente. Grillo ha dato voce a una forte indignazione dei cittadini nei confronti della cattiva politica, non soltanto del sistema berlusconiano. Infatti la critica da subito è stata anche nei confronti dell'allora PDS, DS e adesso del PD. Com'è cambiato il movimento negli anni? È nato dal blog come scommessa di comunicazione di Grillo. Dopo un po' sono nati i cosiddetti meetup, cioè degli insediamenti territoriali, locali, del tutto autonomi, con i quali gli attivisti iniziavano a fare battaglie locali. Poi dall'incontro di tutti i meetup italiani è nato poi, attraverso dei grandi eventi che sono stati i V-Day numero 1 a Bologna con tante città collegate, numero 2 a Torino, dopo il passaggio della cosiddetta Carta di Firenze è nato a Milano il 4 ottobre 2009 il movimento politico. Dapprima c'era la volontà, l'intendimento di partire dai comuni, dagli enti locali, infatti sono state organizzate alcune liste prima nei comuni e poi in alcune regioni e poi si è deciso di puntare al Parlamento. Io addirittura, vedendo Grillo un giorno nel 2008, dicevo, ma anziché consigliare l'astensione in questa fase, perché non organizzi una lista civica nazionale per il Parlamento? Lui mi fece capire che era un po' troppo presto e che voleva partire dal basso, dai comuni, per organizzare lentamente un movimento che sarebbe cresciuto nel tempo. E devo dire che dal punto di vista tattico ha avuto ragione lui. I vostri sms al 349-238-6666. C'è chi, come Nicola da Bari, dice che bisogna vedere quando la gente andrà poi nell'urna se veramente Grillo prenderà i voti che gli vengono attribuiti dai sondaggi. Moltissimi sono i militanti o gli iscritti o non so, comunque persone che dicono di votare Grillo, chi dice che viene da dopo 30 anni di sinistra, voterò Grillo, siamo in quattro a casa mia, oggi saremo in Piazza del Duomo a Milano, dice Antonio, e c'è chi dice parliamo dei giornali che i 5 Stelle hanno utilizzato gratis, un altro ascoltatore. Andrea Berti da Bologna dice che ripercorrendo la storia, riascoltando la storia che state facendo, temo il populismo. Chi come Gaetano dice che finalmente un uomo con fiducia che si prende tutte le sue responsabilità e non affida ad altri la sua vita. Questi sono i vostri sms al 349-238-6666. Un successo previsto, dice Dario Fo, autore del libro Il Grillo canta sempre al tramonto, che è stato scritto da Dario Fo, Grillo e da Casaleggio. È stato intervistato poco fa da Maria Luisa Pezzali. Noi, dico noi perché l'ho fatto insieme proprio a Grillo e al suo assistente, insomma. Avevamo scritto un libro nel quale si prevedeva già tutto quello che è successo, non così vivace, non a questi livelli, non con gli scontri, non con gli insulti, ma sul fatto che il movimento di 5 Stelle avrebbe finito la corsa con uno scatto notevole la si era prevista. Secondo lei dopo le elezioni cambierà qualcosa e se sì come? Ma adesso tutto dipende, lo dicono gli stessi partiti, che alcuni dei quali sono molto preoccupati. Perché io non li ho sotto mano le inchieste, ma loro, ognuno, si fa le proprie inchieste e evidentemente i dati che vengono fuori devono essere molto allarmanti se ne parlano con tanta angoscia. La sua candidatura al Quirinale sussiste? Ma no, è un gioco, una buttata simpatica, mi fa anche piacere che tutti i biglietti che ho ricevuto, le lettere di complimentazione, ma guai, sarei uno sciocco non prenderla per il verso giusto. Bene, grazie a Maria Luisa Pezzali per l'intervista a Piero Ricca e a Dario Fo. Vi ricordo domani alle 13.30, vi ricordo anche che abbiamo la pagina su Facebook, il gruppo Italia in Controluce, poi il luogo di Twitter e poi la nostra mail controluce@radio24.it. Vi saluto qui, Daniele Biacchesi.